Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, prima puntata di Focus Economia della settimana. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Sul fronte nazionale ascolteremo alcune reazioni di varie categorie all'operatività dell'IVA più alta, che ha avuto una ripercussione immediata sulla benzina, l'ha avuta anche sulle sigarette, ma questa non solo per l'IVA. La sta avendo per i generi alimentari, per alcuni prodotti, penso per esempio all'elettronica da consumo. Poi ce l'ha avuta anche, da quello che segnalano molti ascoltatori, sul pedaggi autostradali, e lì capiamo un po' di meno. Questo è il fronte più italiano, che però si connota, come già anticipava il nostro GR, anche per la presa di posizione, la nuova presa di posizione e di nuovo molto dura della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha detto appunto: attenzione, occorre fare riforme, privatizzazioni e liberalizzazioni, oltre che innalzamento dell'età pensionabile, ma di nuovo ha detto: se si continuerà a stare in una situazione di stallo, la voce degli imprenditori non sarà rassegnata, perché stiamo rischiando di buttare via gli sforzi fatti per decenni. Non tolleriamo lo stallo del governo. E ha aggiunto, come se per essere ancora più esplicita: lo scenario italiano è drammatico, la credibilità del paese è minata. L'aumento dello spread è un problema che impatta drammaticamente nella vita di tutti noi. Bisogna recuperare una forte credibilità sui mercati, e non solo sui mercati. Tant'è che il titolo dell'agenzia è: la credibilità del paese è minata. Questo è il fronte italiano. Poi c'è il fronte europeo, e non solo, che vede l'attesa alle 18 per l'incontro tra il ministro greco alle finanze e la cosiddetta troica, cioè i paesi che devono andare a decidere che cosa fare, se dare questo prestito da 8 miliardi previsto a ottobre, su cui l'Europa, con il vertice dello scorso fine settimana in Polonia, ha sostanzialmente preso tempo. E questo è, secondo alcuni osservatori, anche il motivo per cui i mercati oggi sono tornati a calare. Il ministro greco alle finanze Evangelos Venizelos appunto avrà un incontro alle 18, parleremo di Grecia in apertura, perché di nuovo la Grecia viene vista come più che a rischio, pronta a un fallimento, e questo chiaramente contamina poi tutto il resto dell'area euro. Sugli spread vedo già molti messaggi al 349-238-6666. Allora, gli spread sono tornati, ossia la differenza tra quanto costa noi indebitarci, quanto costa la Germania, quindi quanto dobbiamo offrire noi come rendimento, sono tornati di nuovo alti, al 381 punti praticamente. Il rendimento del titolo italiano si attesta al 5,62%. Non c'è stata, contrariamente a quanto avevamo annunciato, l'attesa decisione dell'agenzia di rating, quelle che danno i voti ai governi, ai debiti dei governi e non solo, Moody's. La decisione nel fine settimana su cosa fare del voto all'Italia. Già due mesi fa Moody's disse: è sotto osservazione il vostro debito per un possibile declassamento. Non ha voluto dirci che cosa ne pensa. Perché questo? Questa è cosa un po' più strana. Perché secondo alcuni osservatori, l'agenzia poi è uscita anche con una nota ufficiale, ha detto: rinviamo il nostro giudizio, c'è troppa incertezza sia economica che politica per emettere un verdetto. Allora, va benissimo, perché spesso le agenzie di rating sono state accusate di intervenire in maniera intempestiva, di creare sostanzialmente panico sul mercato. Però è la prima volta a memoria che vediamo un'agenzia come Moody's ritardare il giudizio, perché dice che c'è troppa incertezza economica e politica per emettere un verdetto, che, come scrive già un ascoltatore, è come se il verdetto lo desse due volte, perché chiaramente se fosse stato un buon verdetto l'avrebbe emesso, a maggior ragione visto che c'è l'incertezza economica e politica. La decisione è di un possibile, molti dicono probabile, abbassamento del nostro voto, attualmente al AA2, il voto sul nostro debito. Ma insomma, slitterà di un mese, molto singolare la decisione. È come se improvvisamente, a forza di essere attaccate, le agenzie di rating si fossero accorte che non possono tirarsi sempre fuori, fare i terzi, ma entrano anche loro nel gioco di quello che poi capita sui mercati finanziari. Però una nota l'ha fatta Moody's nel Weekly Credit Outlook, ha detto: attenzione, la manovra del governo per arrivare a quella che porterà al pareggio di bilancio secondo le intenzioni nel 2013 avrà un impatto negativo sul voto degli enti locali, perché appesantisce ulteriormente i bilanci dei comuni e delle regioni che sono già allo stremo e introduce elementi di incertezza per quanto riguarda la distribuzione di poteri e responsabilità a livello locale. E questo è il fronte più europeo. E poi alle 18:10 continua il nostro viaggio tra gli imprenditori che si arrangiano da soli, che nel clima di incertezza vanno avanti, ormai hanno capito che dalla politica arriverà poco, e ci sarà un gradito ritorno. Oscar Farinetti, dopo questo viaggio, il creatore di Italy, colui che ha fatto arrabbiare Bruno Vespa perché gli ha dato un po' troppo del disfattista in una puntata di Porta a Porta qualche settimana fa, e ci racconterà come sta reagendo lui, visto che continua a investire, a aprire negozi in cui c'è l'eccellenza del cibo italiano in giro per il mondo. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Allora, dopo l'apertura di Wall Street i cali si sono accentuati, sì, scrivono alcuni, però adesso sta ritracciando il mercato. L'America perde l'1,8%, Obama ha iniziato a parlare, non vi posso ancora dare le agenzie perché non le vedo. Barack Obama infatti sta parlando della parte che riguarda riforme del mercato lavoro, ma soprattutto anche crescita economica americana. L'oro in rialzo a $1,828 l'once, il petrolio in calo a $86,65 al barile. Sarà anche in calo il petrolio, però attenzione, continua adesso dopo l'effetto, ricorderete il centesimo sull'accise per il fondo per trovare i soldi per il fondo unico sullo spettacolo. Adesso la benzina subisce anche l'effetto IVA e vola un nuovo record, sfiora 1,70 euro, al sud soprattutto, e già, anzi, al sud ci segnalano che siamo già sopra l'1,7 euro. Il prezzo medio praticato oggi va da 1,640 euro degli impianti Esso a 1,646 euro di quelli Tamoil, il neologo sono a 1,547 euro. Il diesel va a 1,3 euro. E alcuni di voi diranno: ah, ecco perché la benzina costa di più adesso nonostante il prezzo del petrolio sia più basso. Non è vero, perché ripetiamo ogni volta il calcolo: a un euro la benzina vale 1,64 euro, il prezzo del petrolio è $87, ossia 64 euro al barile al cambio di oggi. Nell'agosto del 2008 la benzina costava 1,56 euro, il prezzo del petrolio era $148, ossia 93 euro. Praticamente il petrolio costa 29 euro in meno al barile, la benzina rispetto a tre anni fa costa invece 8 centesimi in più al litro, e siccome solo 1,4 è dovuto all'IVA, un altro centesimo è dovuto al fondo unico sullo spettacolo, ballano, come si dice in gergo poco economico, più di 6 centesimi, inspiegabili, inspiegabili. Ancora una notizia e poi partiamo con la Grecia. Scrive un ascoltatore: Barisoni, mamma mia la finanza, com'è pesante la finanza, spero. in questi giorni. Sì, ma noi adesso parleremo di Grecia, che vuol dire la vita dei greci, come un paese affronta la crisi. C'è chi dice impariamo dalla Grecia o usiamo la Grecia come test per capire cosa potrebbe succedere anche a noi, speriamo di no. Però sicuramente dalla Grecia come economia reale, non come finanza. La Grecia sulla finanza ha già fatto tutti i danni possibili che poteva fare nel passato. Qualcosa, a mio avviso, si può imparare. Vorrei dare ancora due notizie, però molto molto rapidamente. Sul fronte europeo, la Banca Centrale Europea ha comprato nuovi titoli italiani e spagnoli. E poi c'è la dichiarazione di Angela Merkel, che ha detto: se crolla l'euro, crolla l'Europa. Solo che la cosa buffa è che ormai la Merkel, quando parla, viene letta solo in negativo. La Merkel voleva rassicurare i mercati, perché solo che l'ha detto in un modo tale per cui è sembrata dire: attenzione, c'è anche l'eventualità della fine dell'euro, perché la frase è: la disgregazione dell'euro porterà alla disgregazione dell'Europa. Detta così, no, può sembrare che una stia in qualche modo facendo una previsione. Non era questa l'intenzione della Merkel, ma l'effetto è stato diverso. Ed è ironico che poi la stessa Merkel abbia consigliato ai membri della sua coalizione di governo di pesare molto attentamente le parole per non innervosire i mercati dell'Eurozona. Ecco, lo dicesse anche a se stessa. Va bene, si fa per dire. 349-238-6666, andiamo con il primo tema, la Grecia. Torniamo con la nostra stacco greco, con un nuovo ospite dalla Grecia. Li stiamo scandagliando un po' tutti per sapere appunto come si sta preparando il paese a una vigilia importantissima. A ottobre la Grecia deve avere un prestito da 8 miliardi di euro, che visto le dimensioni del paese è un settimo dell'Italia, per cui siamo intorno ai 50 miliardi, come se noi avessimo bisogno di una base da 50 miliardi, di un prestito da 50 miliardi di euro, e non c'è ancora l'accordo su questo prestito. Alle 18 questa troica, che adesso chiariremo cos'è, farà sapere al ministro delle finanze greco che cosa ne pensa su questo, e soprattutto che cosa deciderà. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento Vittorio D'Aroldo di Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. E ringrazio anche il collega, perché è un giornalista, Dimitri Deliolanes, è giornalista e tra l'altro l'inviato della radiotelevisione pubblica greca, che si chiama ERT, in Italia, dove vive da 30 anni, è autore di un libro molto carino, devo dire, che si chiama Come la Grecia, quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema. Casa editrice Fandango, buonasera anche a lei, o buonasera anche a te, Dimitri. Buonasera a voi. Allora, partiamo a parlare di Grecia. Lo so, Dimitri, lei penserà che è un po' come se per parlare d'Italia usassimo il mandolino, però ci piace, ci piace, lo so. O sole mio. O sole mio, lo so, però ci piace, che ormai lo stiamo usando da quando è nata la crisi. La domanda gliela faccio subito, poi andiamo invece alla Grecia. Lei che vive da 30 anni in questo paese, che è il corrispondente della RAI, della RAI greca, qui quante similitudini vede e quante differenze vede, onestamente, senza, perché voi dite sempre una faccia e una razza, però in questo caso magari anche no. Dimitri. Beh, similitudini ce ne sono parecchie, intanto sul sistema politico e sul suo uso spregiudicato della clientela e della corruzione, però ci sono molte anche differenze sostanziali. C'è un settore privato italiano sano, forte, riesce a esportare, a conquistare mercati, e che in Grecia invece purtroppo non c'è, per cui insomma c'è. Io direi che l'elemento più importante di differenza è la presenza di una forte, dignitosa borghesia italiana, che in Grecia invece purtroppo non c'è. Quindi noi abbiamo una borghesia e un settore privato più forte, anche sulle esportazioni forse siamo più forti, diciamo, in proporzione. Certo, sì, beh, certo, cioè il sistema privato della piccola e media impresa italiana obiettivamente è ancora invidiabile, o no? Beh, anche certo, ma anche settori un pochettino più grandi, voglio dire, no? Nel settore dell'abbigliamento, nel settore dei piccoli macchinari, forse Carol te lo conosce meglio, ma insomma sono cose che io, anch'io che non sono un giornalista economico, insomma percepisco, capisco, beh, che esistono e che hanno un mercato. Beh, le è toccato diventare un giornalista economico però con quello che sta succedendo al suo paese. Sì, tutti i greci sono diventati economisti. Se lei va in un caffè greco vedrà che si parla di spread, si parla di swap. Ma c'è una radio come Radio 24 in Grecia? No, c'erano, nel libro ne parlo ampiamente. C'è stato il boom della borsa negli anni 90 e c'è stata una fioritura di radio che si occupavano di finanza e di borsa. Poi crollo della borsa sono sparite anche queste. Ma meno male noi ci chiamavamo Focus Economia, non Focus Borsa, sennò come si dice Focus Economia in greco? Beh, Focus è una parola latina. Beh, okay, questo ce l'avevo anch'io. È una parola greca. Quindi Focus Economia, portiamo il copyright così, pulito, vabbè. Allora, la sento bello allegro e allora le faccio subito cambiare umore. Secondo lei il prestito ve lo danno? La tranche, sì. Sì, ce la danno perché sono tutte veramente, stiamo in mezzo, adesso parliamo di politica, se non di più di economia, stiamo pagando colpe in gran parte nostre, ma stiamo pagando anche colpe dell'Europa. Prima ho sentito i commenti che facevano sulle dichiarazioni della Merkel, giustamente i suoi alleati liberali a Berlino hanno preso una batosta incredibile perché andavano in giro dicendo delle cose assolutamente ignobili. I soliti non stereotipi, il tedesco lavoratore, il greco invece poltrone, fannullone, che si mangia i soldi del tedesco lavoratore e sono ridotti al 2%, mi pare di capire. Però a parte questa, diciamo così, incertezze dell'azionista di riferimento dell'Unione Europea e alla Germania, ci sono stati dei grossi ritardi, l'ha detto l'altro ieri Strauss-Kahn nella sua prima intervista, della stessa Europa nell'affrontare in maniera coordinata, congiunta, unita, diciamo, questa crisi sul nascere, ha dovuto correre appresso agli avvenimenti ed ecco qua il risultato che francamente un paese che ha poche possibilità di ripresa. Il problema della Grecia oramai non è riprendersi, perché questa prospettiva mi sembra molto molto difficile, è sopravvivere per un certo periodo di anni grazie ai prestiti stranieri e trovare un modello di sviluppo e riuscire a pagare questi prestiti e a risollevarsi, perché di PIL in positivo nei prossimi 2 o 3 anni francamente mi sembra un po' improbabile parlare. Allora, adesso vorrei capire se invece lei ritiene, anzi tu ritieni, che non sia, come alcuni suggeriscono, meglio per la Grecia uscire dall'euro, cioè se tutta questa fatica non rischi di strangolare poi il gattino. No, sorridevo perché un ascoltatore, che devo dire apprezzo come senso dell'umorismo, dice: ma insomma Barisoni, con tutte le sfighe che ha la Grecia, gli manca pure Radio 24. Vabbè, apprezziamo però adesso seriamente mi dica se dentro l'opinione pubblica greca, dentro i bar che lei citava, e quindi l'uomo della strada, con un termine orribile, inizia a serpeggiare la sensazione che forse quasi quasi è meglio tornare alla dracma. No, non è assolutamente proponibile, forse qualcheduno che non sa nulla lo potrà anche dire, perché io nel libro ne parlo anche di questo, c'è un sistema informativo assolutamente inaffidabile, populista, fatto di strilli, di sensazionalismo, eccetera, per cui è probabile che qualcheduno trascinato da queste cose dica che la soluzione è l'unica soluzione, ma non è questo comunque il sentimento dominante. Il sentimento dominante è di tradimento da parte della classe politica, di quella che ha governato di centro-sinistra e che si è fatto entrare nell'euro, e quella che ha seguito dopo di centrodestra. I due maggiori partiti greci sono gli imputati. La gente si sente tradita e abbandonata, ecco, da questi politici. Sì, tutto vero, perché insomma i conti li hanno truccati i partiti, vi siete fatti aiutare anche da una grossa banca d'affari americana per fare un po' di finanza derivata e deviata. Però io non vorrei che, come in Italia, la colpa è sempre di chi ti sta accanto, la politica ha delle grossissime responsabilità, lo vediamo in questi giorni. Però è anche vero che in Grecia, mi scusi, l'economia sommersa batte, cioè il nero batte anche l'Italia, il 25% del PIL, da noi è stimato nel 18%. ci raccontano tutti gli ospiti che abbiamo che avere una ricevuta in Grecia è difficile in quanto in certe ricevute in certi punti dell'Italia, comunque più che in Italia. L'evasione fiscale sfiora il 40% del PIL, anche qui più che in Italia. Allora, forse l'intera società greca ha avuto la classe politica che si meritava per vivere sopra le sue possibilità, o no? Indubbiamente, quando dico che si sentono traditi dai politici, non intendo assolvere nessuno, sicuramente ha grosse responsabilità anche per un altro fenomeno che lei non ha citato, ed è quello della clientela, nel senso che per 30 anni, 40 anni è andato avanti il sistema politico, otteneva consensi e voti imbottendo il settore pubblico, ed è questo l'argomento della telefonata che avrà Venizelos, il ministro delle finanze, con gli esponenti della Troica tra qualche oretta, mi sembra. Cioè, abbiamo un paese quasi sovietico, dico tra virgolette, con un settore pubblico immenso, perché la società ha fatto questo scambio con i poteri, con questi due maggiori partiti di governo. Ma per carità, non voglio assolvere nessuno, ed è questo il tradimento, perché finché è funzionato il giochino, c'era consenso e c'era benessere e tutti quanti venivano sistemati. Una volta che è crollato questo giocattolo, come non poteva che crollare, era inevitabile che crollasse, eccoli qua che nascono, non solo che pagano non solo il settore, l'elefantiaco inefficace e corrotto settore pubblico, crolla tutta l'economia greca, ed è questa la responsabilità. Ma visto che con questo tipo di interventi non c'era possibilità che reggesse l'economia greca, perché era totalmente collegata con lo Stato. Allora, i parallelismi sono inquietanti, tranne però tutte le differenze che abbiamo ricordato, che non sono da poco all'inizio. Forza dell'Italia nel settore privato, della piccola, media e anche grande impresa, alto risparmio degli italiani. Cioè, ci sono parecchie differenze su questo, però alcuni paralleli lasciano veramente basiti. Vittorio Darold, prima di andare con il meteo, la troica alla fin fine, a parte che questa troica, chiariamo cos'è, perché leggo un po' di tutto in questo periodo. Praticamente sono dei rappresentanti della Banca Centrale Europea, della Unione Europea, in particolare della Commissione Europea, e del Fondo Monetario Internazionale, che, come prima ricordavi, era appunto prima gestito dal direttore, che era appunto Strauss-Kahn, che si è speso moltissimo per la Grecia, è stato forse uno dei politici che ha creduto di più nel fatto di dover aiutare la Grecia, non in quanto Grecia, perché, come ricordavi, sono 12 milioni di abitanti, praticamente il 2% del PIL di tutta l'Unione Europea, quindi poca cosa, ma sapeva benissimo che se non si salvava la Grecia con i 110 miliardi appunto di aiuti che venne fatto esattamente a maggio di un anno fa, non ci sarebbe stato il contagio, perché molti dei problemi erano nelle banche europee, che poi a sua volta avrebbero innescato il problema dell'euro. Ecco perché oggi la Merkel dice che se bisogna salvare l'euro. E Strauss-Kahn è stato forse uno di quelli più acuti, più attenti, quello che aveva capito che sarebbe stata la Lehman Brothers dell'Egeo. Lui parlava di Lehman Brothers dell'Egeo. Questa era la sua visione. Purtroppo poi cambiato in corsa. Sì, e lui ha avuto la sua Lehman Brothers, diciamo, a New York. Detto ciò, adesso al metro la pubblicità. Poi vorrei chiederti una cosa, Dimitri Degliolanes. Se esistono differenze economiche, ti chiedo scusa per la mia ignoranza, così profonde come in Italia, perché alcuni ascoltatori dicono, ma le differenze politiche potrebbero anche stare nel fatto che in Italia esiste un partito, abbiamo visto nel fine settimana, almeno a parole secessionista come la Lega, e però anche organizzazioni forti come non solo i sindacati, come la Confindustria, la Confcommercio. Esiste una differenza territoriale tale da rischiare poi la tensione anche sulla tenuta del paese, oppure no? La risposta dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulla Grecia. Giornata oggi delicatissima, ottobre si avvicina, senza 8 miliardi la Grecia non va avanti, non paga gli stipendi. A ottobre è oggi l'incontro, tra pochi minuti, tra il ministro delle finanze greco e la troica cosiddetta. Devo dire che si stanno scatenando gli ascoltatori, addirittura c'è chi scrive Timeo Danos et sfiga ferentes, bellissimo, in qualche modo mutando la frase Arcinot, ecco che abbiamo in collegamento di nuovo Dimitri Degliolanes, e poi un ascoltatore che fa un parallelo molto giusto, a mio avviso, correggendo in qualche modo Vittorio D'Arold, che citava Strauss-Kahn, che ha detto: attenzione, la Grecia potrebbe essere la Lehman Brothers d'Europa. La Grecia è la Bear Stearns dell'Europa, l'Italia sarebbe la Lehman. Se ricordate, prima fallì Bear Stearns con una banca più piccola, e poi toccò, non male, ogni te, non abbiamo dei cattivi ascoltatori, un po' critici ogni tanto, ma non male. Allora, Dimitri Degliolanes, esiste una differenza anche politica, in questo senso di geoeconomica nel paese, o in realtà se dovesse andare a fondo andrebbe a fondo tutto nello stesso modo la Grecia? La differenza che c'è economica è tra la capitale Atene e il resto della Grecia, perché la maggior parte delle attività... Il collegamento con la Grecia è un po' in difficoltà, spero non abbiano già tagliato le bollette in Grecia, adesso lo recuperiamo. Vittorio D'Arold, invece, i nodi da sciogliere, perché purtroppo bisogna essere anche molto seri su questo tema... Gli aiuti europei, la Troica europea è preoccupata per alcune riforme che la Grecia non è ancora riuscita a fare. Questo va detto, non è che ci sia solo una cattiveria verso i greci. Vittorio. No, esattamente. Il piano è stato fatto. Noi vi prestiamo, perché si tratta di prestiti, 110 miliardi, 80 all'Unione, 40 il Fondo monetario, in cambio di riforme strutturali e di rimettere in ordine appunto i conti. Il deficit purtroppo sta invece, non rispetta il piano che era stato concordato. È vero, hanno detto i greci, che la recessione, questo è il terzo anno, invece di essere il 3,8 è il 5,5, e quindi hanno chiesto una maggior tolleranza. Invece l'Unione Europea, appunto la Troica, ha risposto che bisogna che il deficit torni a posto, torni appunto sotto controllo, e che arrivi al surplus primario, di modo che si cominci a invertire la tendenza. Cioè bisognerebbe avere qualcosa per evitare che si spenda più di quanto si guadagna. Dal punto di vista delle entrate non ce l'ha fatta, perché l'imposizione fiscale è appunto, come dicevamo, assolutamente sotto le stime. Non entra assolutamente quel minimo di cassa che permette di riprendere, un po' per la recessione, ma un po' perché proprio il 40% sistema, di evasione, un quarto del PIL sommerso. Non ce la fa. O fai la lotta all'evasione, o non entra. Esattamente. E questo purtroppo è stato veramente un disastro. L'altro aspetto è il fatto appunto che le spese continuano a essere elevate, avendo tagliato i salari del 20%, hanno alzato l'età pensionabile a 65, quindi alcune gravi storture ci sono, però hanno continuato ad assumere, alcuni ministeri hanno continuato ad assumere le persone. E questo è stato il fatto che ha fatto scatenare. Da noi la spesa corrente continua a salire nonostante tutte le promesse, e da loro continuano a fare assunzioni. Invece appunto vogliono che si vada a un blocco. I dipendenti pubblici in Grecia, si fa una stima di 750.000 persone, però è un'enormità, perché poi ci sono tutte le società pubbliche o parapubbliche che andrebbero aggiunte. Comunque restiamo proprio al nucleo, e queste ne servirebbero il 20% in meno. Questa è un po' la questione. Loro hanno ridotto, hanno tagliato, hanno abolito le province, però c'è ancora tutto il personale, e quindi adesso vorrebbero ridurre il personale, metterlo in una sorta di cassa integrazione per un anno al 60% del salario, e se accettano di essere trasferiti in posti più utili, la cosa verrà. Se invece non accettano, appunto, vorrebbero rompere il tabù del licenziamento anche del però questo è veramente... Cioè, ma trasferiti in posti disagiati col 60% dello stipendio? 60% dello stipendio nel primo anno in cui devono trovare il nuovo posto. Se invece troveranno il nuovo posto, tornano appunto allo stipendio completo. In questa fase la chiamano una specie di cassa di compensazione. Verrebbero parcheggiati in quest'area speciale. Però i sindacati si oppongono, non è stato fatto nulla, anzi sono state assunte altre persone. Una situazione comunque molto grave, al punto che la multinazionale Roche ha bloccato le forniture dei medicinali agli ospedali greci. Questo è gravissimo. Perché non pagano da 3 anni, e la multinazionale ha detto che continuerà a fornire le farmacie che invece pagano. ma alcuni ospedali che non pagano da 3 anni sono stati bloccati per spingere al pagamento. Abbiamo recuperato Dimitri Degliolanes che stava concludendo, mi senti? Come no. Ecco, che stavi concludendo il ragionamento sulle differenze invece economiche tra Italia e Grecia a livello geografico, cioè non esiste un centro-nord nettamente più ricco del sud. No, c'è un Atene e il resto della Grecia, ha detto banalmente provincia, e c'è non ci sono per nostra fortuna movimenti separatisti. Là, l'identità nazionale italiana e greca sono un po' differenti, sono nate in maniera differente. Volevo fare un commento su quello. Anzi, volevo dire una cosa su Darold, sì, che è citato nel mio libro ampiamente, perché lui ha fatto un bellissimo scoop a giugno, quando il capo dell'opposizione andava in giro per l'Europa a esporre il suo programma alternativo a quello del governo, e invece Darold ha rivelato che lui diceva pubblicamente una cosa, poi invece in privato ai suoi interlocutori europei ne diceva un'altra, completamente un'altra. E questo è stato un colpo decisivo, diciamo, alla credibilità dell'opposizione, un'opposizione demagogica che non ha nessun tipo di programma alternativo rispetto a quello del governo, anche perché non esiste, insomma. Volevo approfittare dell'occasione per congratularmi con lui, è ampiamente citato nel libro. Sì, vabbè, adesso parlatevi, lui non lo sapeva e non usate i microfoni della radio. Una cosa, scandali della classe politica in Grecia? Oh, come no, ce ne sono a bizzeffe, così siamo quasi a livelli italiani, anzi, siamo sicuramente decisamente a livello italiano, ci mancano le escort, quelle ci mancano. Guardi, mi sa che qua qualcuno di disoccupata c'è, ve le mandiamo noi. Grazie Dimitri Degliolanes. Grazie a voi. Giornalista, inviato e corrispondente della RAI greca in Italia, grazie Vittorio Darold. Grazie. Cerchiamo ogni tanto anche di ironizzare, perché veramente fare una puntata sulla Grecia con tutti i paralleli con l'Italia, se no è da brivido, e appunto se no hai ragione chi dice... Danos et Sfiga Ferentes. Grazie Vittorio Darold. Traffico e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti. Adesso commentiamo la borsa. Oggi senza Radio Corriere sulle 24 ore per motivi sindacali, la faremo con un gestore. Però due risposte ancora devo dare sul paralleli tra Italia e Grecia, parallelismi tra Italia e Grecia e anche invece sulla situazione greca. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non riesco a capirlo, ma insomma l'Italia dica che non potrà finire mai come la Grecia, non può fallire perché i cittadini hanno un patrimonio di 9.000 miliardi, un po' diverso il patrimonio italiano. Comunque, attenzione, è vero che il nostro risparmio privato è il più alto in Europa, è il secondo/terzo a livello mondiale, però questa cosa, per avere un senso compiuto, bisogna anche aggiungere che tu il patrimonio dei cittadini lo puoi mettere a bilancio se fai la patrimoniale. Cioè, insomma, non è che si può dire ma tanto noi non possiamo fallire, allora andrai a toccare i depositi. Io spero che non arriveremo mai a una cosa del genere, per cui attenzione a dire ma tanto noi, anche se abbiamo il debito più grande d'Europa, stiamo tranquilli perché abbiamo i risparmi più alti. Era una grossa vulgata qualche mese fa, il ministro dell'economia Tremonti lo citava spesso come passaggio. Ripeto, ha un senso se tu poi usi questo patrimonio privato, se no è un patrimonio privato che tu non puoi toccare. Infine, vedo dall'inizio del programma molti messaggi sul fatto che Cicciolina, in quanto ex parlamentare, compirà a novembre 60 anni, c'era oggi su tutti i giornali, e percepirà 3.000 euro al mese. Sì, però permettetemi, lo scandalo non è Cicciolina. Sono tutti parlamentari che avendo fatto anche poco più di metà legislatura li percepiranno, e quelli che fanno i parlamentari pur facendo il mestiere di Cicciolina senza averlo mai detto, e tutti quelli che hanno fatto danni ben peggiori a Cicciolina. Prendersela con una perché compie 60 anni, questa è la legge, vale per lei come vale per tutti. Abbiate pazienza ai mercati. Allora, oggi li facciamo con un gestore, dicevo, giornata che alla fine si è chiusa con un MIBT che a fatica ha tenuto i 14.000 punti, 14.086 punti, meno 3,20%, meno 3% Parigi, meno 2,80% Francoforte, meno 2% Londra e meno 1,50% invece in questo momento il Dow Jones. Ancora per quello che riguarda i temi, Finmeccanica meno 8,60%, La bufera giudiziaria colpisce comunque il titolo, eh? Non sono solo i realizzi. Mediaset meno 5,22, Pirelli meno 4,70, Saipem meno 4,5, Intesa meno 4,1, ST Microelectronics meno 3,90, Fiat Industria meno 3,60, come Exor e come Toz e anche le generali. Il 3% l'ha perso Tenaris e Mediolanum. Chi ha guadagnato oggi? Fondiera Sai più 2,70, Banco Popolare più 1,40, A2A più 0,20%. Dottor Carlo Gentili, amministratore legato di Next and Partners, buonasera. Buonasera a voi. Una domanda prima di tutto, insomma, ma è vero che la Merkel, nel tentativo di Angela Merkel, la cancelliera tedesca, nel tentativo di rassicurare i mercati, ormai viene vista come un gufo e quindi anche per aver detto semplicemente attenzione, se crolla l'euro, crolla l'Europa, è stato preso come un monito invece che come un, diciamo, un elemento di, della disponibilità tedesca a mantenere l'euro? Ma diciamo, purtroppo in questi ultimi, diciamo, paio di mesi si stanno avanzando le ipotesi più così inimmaginabili. Anche solo qualche mese la fa. Sento molto basso, mi porta la voce niente. Sì, eccoci. Dicevo sì. Che negli ultimi mesi ormai si sentono fare ipotesi le più incredibili, le più, diciamo, drammatiche, che solo pochi mesi fa erano impronunciabili. Purtroppo quindi anche un'affermazione, io credo costruttiva, visto anche l'ultima intervista sul Financial Times della cancelliera Merkel, dove scacciava l'idea di un possibile default della Grecia, credo siano affermazioni fatte in senso costruttivo, ma il mercato elabora e ipotizza anche l'eventuale scioglimento dell'euro, il che sarebbe effettivamente un elemento estremamente negativo con il quale chi, diciamo, lo agita non ha fatto secondo me molto bene i conti, neppure i propri. Venendo ai temi di giornata invece, Finmeccanica pesa più secondo lei i realizzi perché era cresciuta molto sull'ipotesi di una cessione di Ansaldo STS o anche le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti ahimè molti dei suoi manager? Quando viene meno un management o c'è il rischio che venga meno un management, evidentemente il mercato realizza, insomma, ecco, è tutto un po' anche irrazionale se vogliamo, però queste vicende pesano, credo che pesino pesantemente. E sulle banche e su Unicredit nel caso specifico, lei in questo caso come operatore pensa che sarà necessario un aumento di capitale lì o è ancora prematuro? Perché insomma le voci, prego. Mi sembra di capire che a livello europeo si vada verso un ulteriore secondo giro di aumento di capitale degli istituti bancari, quindi diciamo, soprattutto i principali dovranno fare i conti con questa realtà. Del resto, se non usciamo da questa crisi, e io sono tra quanti pensano che basterebbe veramente poco per uscirne, basterebbe qualche piccolo provvedimento un po' in buona volontà. Me ne dice due? Ma ci vuole equilibrio, quindi diciamo una riforma, sono provvedimenti draconiani ma che devono riportare credibilità. Me ne dice due? Riforma delle pensioni, per esempio, riforma delle pensioni da un lato e dall'altro un attacco concreto all'evasione fiscale e forse anche, come dire, qualcosa di più, non lo so, ma certamente diciamo mettere insieme due o tre provvedimenti che non possono essere dichiarabili, diciamo, definibili di parte, ma che vanno a chiedere un aiuto sia ai ceti più abbienti che ai ceti meno abbienti e quelli che hanno beneficiato per anni della spesa pubblica attualmente fuori controllo, ma va fatto con credibilità. Il punto vero è quello, non esiste provvedimento risolutivo, io non lo conosco, ma credo che non lo conoscano né i ministri, né i parlamentari dell'opposizione, né i commissari della Commissione Europea, né il direttorio della BCE, non c'è un provvedimento, c'è un fatto di credibilità. O il paese riconquista la credibilità o continuiamo con questo. Non mi sembra che stiamo comunicando tutta questa credibilità, ma è la mia impressione. Per carità, Gentili, resti con noi perché dopo il GR le vorrei chiedere un settore in cui uscire in borsa e un settore in cui investire. E quanto alla credibilità, poi ricorderemo anche le parole molto dure di oggi, di nuovo, di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. 349-238-6666 per i vostri sms e il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ha ragione un ascoltatore che dice, invece che rapportare il debito pubblico nostro al risparmio privato, che non ha alcun senso, e sono d'accordo, avrebbe più senso rapportare il nostro debito pubblico al patrimonio pubblico, visto che ne abbiamo ancora tanto. E da lì la famosa ipotesi, il primo fu, se non ricordo male, Alessandro Profumo a dire addirittura 400 miliardi complessivamente. Comunque, da un punto di vista economico è sicuramente giusto quello che lei dice. E invece vorrei chiedere al nostro ospite, prima di salutarlo, gli avevo promesso, a Carlo Gentili, amministratore delegato di Nexam Partners, cosa, in quali settori lei investirebbe in questo momento a questi prezzi e dove invece starebbe fuori, o se starebbe fuori da tutto. Ma stare fuori a questi prezzi è difficile, nel senso, la borsa appunto a valutazioni, sconta valutazioni di scenari veramente gravi, quindi sì, da un lato, non so, i finanziari potrebbero, se ci fossero gli aumenti di capitale, come dicevamo prima, potrebbero avere ancora spazio a scendere, però mi sembra difficile anche pensare di vendere le banche italiane a queste valutazioni. Comprerei invece sicuramente, non so, penso al settore della sanità, sicuramente salute, farmaceutico, diciamo, è certamente interessante, e tutti gli esportatori in generale, Campari, Autogrill, Brembo, insomma le piccole, medie, grandi aziende che fanno l'Italia. Bene, grazie anche per l'indicazione e per la per il dettaglio dell'indicazione a Carlo Gentili, mi sto legato di Nexam Partners. Noi adesso cambiamo tema, non parliamo più di borsa, parliamo della prima giornata con la nuova IVA. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima giornata lavorativa si intende. Allora, l'effetto sulla benzina c'è stato, ma abbiamo già spiegato all'inizio che la benzina comunque continua a essere in maniera irragionevole più cara rispetto a 3 anni fa, al di là e anche al netto dell'aumento dell'IVA. Secondo Federalimentare, poi, un terzo dei prodotti alimentari crescerà come prezzo per l'aumento dell'IVA, con un aggravio di spesa di circa 50 centesimi al giorno a famiglia, cioè 180 euro all'anno. La nostra Anna Marino ha raggiunto il direttore generale di Federalimentare, Daniele Rossi, gli ha chiesto se già hanno scaricato i suoi associati la nuova IVA sui prezzi. Degli aumenti ben piccoli e ridotti solamente ai prodotti ad alta rotazione, in cui le scorte erano finite, quindi si parla di prodotti, insomma, ad uso quotidiano. Quali prodotti avete verificato che possono essere aumentati? Il succo di frutta, acqua minerale e caffè. Quindi il trascinamento a valle dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% non è ancora sul mercato, o lo è solo per una parte di prodotti alimentari, quelli ad altissima rotazione. Per quanto riguarda invece altri prodotti, effettivamente a regime vedremo l'aumento con la fine delle scorte, quindi a gennaio l'anno prossimo. Quanto sono aumentati questi prodotti? Complessivamente noi stimiamo come Federalimentare un aumento per le famiglie italiane a regime di 180 euro. Non tutti sono subito, si parla dell'anno prossimo. Io credo che l'aumento per le famiglie italiane in questo tratto autunnale sarà di 20, 30 fino a 50 euro. Qualche esempio? Federvini ha fatto una stima che sui prodotti alcolici, il vino in particolare, l'aumento sarà di circa 10 euro a famiglia, 9-10 euro. Per la birra intorno ai 12 euro. E per le acque minerali anche intorno a cifre simili. Ci sono prodotti che rimangono comunque esclusi? Tutti i prodotti al 4-10%, quindi i derivati del latte, il pane, i biscotti, i dolci, le conserve vegetali, il pomodoro, la pasta, non subiranno nessun aumento se non quello derivante dall'aumento delle materie prime. L'effetto più importante è invece sulle aspettative dei consumi. E poi c'è anche la polemica di chi dice, insomma, potevano almeno cambiare l'IVA a fine mese. Lì però è quando viene pubblicato il decreto in gazzetta, la legge in gazzetta ufficiale, per non far impazzire le aziende con la fatturazione con i prezzi sui vari generi alimentari o non alimentari, e poi vorrei sentire anche come va in un altro settore, un settore che lo dico subito, l'elettronica da consumo, gli elettrodomestici, che da sempre, da almeno 10 anni, ha una valenza deflattiva. E cioè i prezzi anche nominali di questo settore sono tra i pochi prezzi che abbiamo visto in calo continuamente rispetto ad altri settori, appunto l'alimentare, ma non solo. L'elettronica da consumo, come la chiama l'Istat nella sua rilevazione, ha avuto prezzi nominali, quindi a maggior ragione reali, costantemente in calo. Albino Sonato è presidente dell'AIRES, che è l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati, e anche presidente di Euronics, che è una delle catene più importanti in Italia. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, l'effetto dell'IVA l'avete già scaricato sui listini? Ovviamente sì, perché noi abbiamo un margine quando le aziende profittano, mediamente le nostre associate più brave, quando profittano tanto al netto delle imposte, profittano 0,5, 0,7, 0,8 massimo. Quindi pensare che con questa riserva che arriva alla fine dell'anno di poi fare gli investimenti per lo sviluppo di punti vendita nuovi, quindi se noi e incamerassimo questo 1% qui, andremo tutti in rosso. Già comunque il settore ha parecchie aziende i cui bilanci sono pubblici, basta guardare, sono perennemente rossi da diversi anni, e quindi questo evidenzia che è un settore a bassissima profittabilità proprio per l'effetto che lei ha detto, cioè quello di che ha un effetto deflattivo. I prodotti calano continuamente di prezzo, rifare lo stesso fatturato dell'anno precedente con un genere di prodotto è pressoché impossibile, bisognerebbe aumentare la vendita del 30-25% in termini di pezzi, con aggravio dei costi, ma per ottenere lo stesso fatturato. Cioè, se ho ben capito. Quindi noi abbiamo di fatto, contribuiamo a far ottenere bassi prezzi, capito? Cioè, se ho ben capito, lei dice la media di guadagno dei profitti che fa il settore al netto delle tasse e di tutto è lo 0,8%. Ma le migliori, cioè no, migliori del mondo, diciamo così. Ecco, quindi se non scarichiamo l'IVA ci mangiamo anche lo 0,8%. Assolutamente si va in negativo, e pertanto è impossibile, visto che, ripeto, la generazione di cassa da parte di queste aziende è limitatissima. Oltretutto non può fruire dei vantaggi di altri settori che subiscono anche un finanziamento attraverso il fornitore, in quanto i pagamenti sono corti, quindi anche le riserve di cassa sono molto diciamo, limitate, insomma, in questo senso. Domanda, però quando io compro un elettrodomestico è un bene più o meno durevole, no? Insomma, ce lo auguriamo tutti. Non è che l'IVA, l'aumento dell'IVA rischi di impattare più sui prodotti a largo consumo, e quindi a consumo più frequente, meno, cioè l'1% quando io vado a comprare un frigorifero piuttosto che un televisore di nuova generazione o un DVD, un lettore DVD, magari con le promozioni che fate voi si nota meno, no? Neanche, in quanto i prodotti dell'elettronica mediamente hanno una vita di 4-5 mesi e poi entrano in scena altri modelli con prezzi diversi che partono da 100 e vanno a scendere, facciamo un dato basico, e questo chiaramente rende impossibile qualsiasi effetto, diciamo così, di incremento dei prezzi ai fini dei consumatori. Poi se aggiungiamo questo la guerra feroce che esiste tra le organizzazioni di vendita, dove diciamo così a volte avvengono degli abbattimenti per promozioni sotto costo o quant'altro di centinaia di euro su un televisore, e capisci che a questo punto diciamo l'1% come di 6-7 euro su un televisore è praticamente quasi insignificante da questo punto di vista nel nostro settore. E poi è un settore che non consente il classico lavorio tra virgolette del prezzo, in quanto sono prezzi molto ottici, molto visibili, e per effetto dei prodotti che hanno nome, cognome, data di nascita, quindi non sono prodotti difficilmente individuabili, sono facilissimamente individuabili, e nel mercato sia nel mercato del trade sia nel mercato internet si trovano fotografati in alta definizione e si capisce quello sono cosa costano. C'è un prezzo, direi che è un prezzo monitorato dai consumatori più di qualsiasi altro genere di prodotto al mondo. Beh, in bocca al lupo, come facciamo tutti i rappresentanti di un settore, ho capito benissimo perché l'avete scaricata, e anche che comunque forse avrà un impatto minore rispetto ad altri settori. Una precisazione, 180 euro la stima di Federalimentare all'anno in più a famiglia, al mese, all'anno. Forse ho sbagliato io, chiedo Venia se ho sbagliato a dire qualcosa. Grazie ad Albino Sonato, presidente dell'AIRES. Grazie a voi, grazie. Oscar Farinetti, fondatore e presidente di Italy, quella catena di prodotti alimentari di altissima qualità, tutti italiani, in accordo con Slow Food, un caso di successo, Torino, Milano, Genova, Asti, Bologna e poi l'apertura del mega store a New York e a Tokyo. Buonasera Farinetti. Buonasera. È tornato dal suo giro da Genova a New York in barca, sette mosse per l'Italia. Tornato in forma splendida, 32 giorni di navigazione, ho attraversato l'oceano a 57 anni. Meno male che c'era Giovanni Soldini però, perché ecco. L'oceano è una roba bellissima e tremenda insieme. È tornato, come l'ha trovato il paese? L'ho trovato come lo immaginavo, e cioè distrutto. Secondo me l'Italia è in una situazione senza nessuna possibilità di uscita. Farinetti, lei era quell'ottimista, no? Io ricordo sempre che... Io lo dico con molto ottimismo a questo punto. Alla faccia. Dico, lei era quello della pubblicità, cos'era, sì, Unieuro, no? Con, guardi, Tonino Guerra. Forza di ottimismo. L'ottimismo, è sale della vita. Forza di dire che l'Italia ce la fa, facciamo gli struzzi, ci troviamo in questa situazione. Abbiamo, credo, la peggiore classe politica della storia dell'Italia da sempre, per la prima volta molto peggio di noi italiani, che non siamo granché, io per primo mi ci metto, e quindi abbiamo avuto sempre una classe politica che ci ha rappresentato bene, ma stavolta siamo scesi così in basso e non ce la possiamo fare, perché la polis resta l'arte suprema, l'arte del governo, e per quanto ci possiamo sbattere, noi imprenditori, i lavoratori, i contadini, a farne di ogni, tuttavia alla fine se la polis è questa... non ne usciamo, quindi a questo punto conviene fermarsi prima, fare un minimo di rivoluzione sperando che sia più dolce possibile e ripartire da zero. Lei ha aumentato i prezzi, l'IVA l'avete già applicata nei vostri negozi? Non ancora, noi inciderà di un 100.000 euro l'anno, mi hanno detto i miei, c'è il vino che incide molto, poi c'è il cioccolato, poi c'è il caffè, lei sa che sui beni primari l'IVA al 4% sì. È al 10% quindi non viene toccata. Il problema è comunque tanto non si risolve niente con l'IVA. Le mosse da fare erano ben altre. Adesso parliamo delle mosse, il traffico prima. Ultima parte di Focus Economia. Allora, Oscar Farinetti, perché secondo lei siamo arrivati, lei che da sempre un ottimista, per la regione in cui viene, la Emilia Romagna, sempre ottimista, perché siamo arrivati così in basso? Perché insomma mi sembra di leggere un po' di sconforto. Lei ha fatto anche molto arrabbiare Bruno Vespa porta a porta, perché le ha risposto: guardi che non è che gli imprenditori siano meglio dei politici, in sostanza. Detto, cioè... Peccato che non mi ha dato diritto di replica, avrei potuto dirgli che non è affatto così. Fortunatamente abbiamo una classe imprenditoriale in Italia di altissimo livello, ma a livello mondiale, questo è riconosciuto. C'è un problema enorme. Allora, la prima operazione da fare è la riforma della politica. Questa classe politica ha portato ad uno spreco di costi mostruosi, ma soprattutto ha portato ad una mentalità egoista. Vede, la classe politica di governo è fatta da due uomini soli al comando, con entrambi con dei problemi personali enormi, non andiamo a analizzarli. Problemi personali enormi che non gli consentono di governare, e una miriade di vassalli e varvassori intorno, il cui unico sentimento e valore che provano è quello della gratitudine verso i due capi, e quindi non possono assolutamente esprimersi su nessun tema, perché la gratitudine li impone. Dall'altra parte si verifica un momento straordinario in cui c'è un'opposizione enorme, perché si è mai verificato che dalla Confindustria, gli artigiani, gli agricoltori, i contadini, i tre principali quotidiani italiani, tutte le televisioni, meno le sue e meno quelle di propaganda della RAI, tutti sono d'accordo che questo governo con questa classe non ce la si può fare, ma non si crea una cosa insieme per reagire, quindi la CGIL fa lo sciopero da sola, gli altri dicono un'altra cosa, quegli altri dicono un'altra cosa. Io ultimamente dico: fermiamoci un giorno tutti. Pensi che bello se tutti ci fermassimo un giorno, tutti, padroni, operai, impiegati, contadini, giornali, le radio, fermiamoci un giorno tutti, non su temi ideologici strani, semplicemente sul fatto che abbiamo bisogno di un gesto di discontinuità. Ora noi abbiamo bisogno rapidamente di un governo tecnico fatto da competenti che reagiscono all'emergenza. Dall'altra parte la classe politica deve fare la riforma della elettorale e della politica, e poi tra sei mesi riandiamo a votare. Ma oggi occorre rapidissimamente per dare credibilità ai mercati, per dare credibilità agli elettori, ai clienti, ai consumatori, agli operatori, insomma alla società civile, c'è bisogno di un gesto di discontinuità. Se stiamo fermi così, si riparla addirittura di secessione, io trovo tutto questo pazzesco. Ma com'è che Farinetti adesso, tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di votare, quindi va benissimo, com'è che lei da imprenditore, da persona che ha creato diverse società, adesso è così infervorato alla politica? Perché no, magari è una passione che arriva un po' in là con l'età, oppure sente che la situazione è veramente... Non sono assolutamente infervorato dalla politica, sono una persona che pensa che la polis sia un'arte fondamentale, l'arte del governo, come la pensava Pericle, che poi è l'altro ieri, cioè 451 avanti Cristo. Se lei legge il discorso di Pericle agli Ateniesi, tradotto da Paolo Rossi, lo trova di una modernità pazzesca. Trovo che ognuno di noi si deve interessare ai propri temi, magari che ognuno di noi, gli imprenditori o altri, hanno a che fare ogni giorno con la politica, la burocrazia, gli enti, le tasse, lo sviluppo, ci troviamo sempre di fronte, senza politica non si va da nessuna parte, quindi non è che sono infervorato, sento che siamo arrivati ad un punto di non ritorno, sento dei ragionamenti demenziali, vedo persone che non lavorano, perché far politica vuol dire lavorare, vuol dire farsi il mazzo, vuol dire stare sul pezzo, vuol dire avere competenza, conoscere i problemi, fare un'analisi fatta bene, e quindi siccome ho sempre visto che chi rompe le cose poi non le aggiusta, tu non puoi far aggiustare le cose da chi le ha rotte, perché chi le ha rotte vuole dimostrare sempre che non è vero che le ha rotte, persino la General Motors è fallita tenendosi il vagone in 15 anni, e quindi dobbiamo cambiare, abbiamo bisogno di una nuova classe politica, e ci sono le persone, ci sono assolutamente, io vorrei anche creare un piccolo movimento per indicarle, non lo faccio io personalmente, io non faccio la politica e non sarò mai a farla perché non ne sono capace, ma ci sono persone bravissime nel nostro paese, bisogna dargli spazio e quindi è fondamentale, perché su tutto il resto è facile, guardi che mettere a posto il paese, noi abbiamo un paese straordinario messo in una posizione strategica del pianeta, con delle risorse e delle vocazioni incredibili, alla fine è un problema di un centinaio di miliardi, ma meno, sono 80, incassiamo 700 miliardi e ne spendiamo 780, è come prendere un'azienda che perde l'11% ma che ha degli asset fondamentali, si mette a posto in 6 mesi, il debito pubblico si può fermare, c'è solo bisogno delle persone che lo facciano, se noi non mettiamo le persone giuste a farlo non si farà mai e la situazione diventerà sempre peggiore. Mi arrabbio di più proprio a pensare, perché siamo un paese straordinario, con delle risorse pazzesche. Allora, ho un minuto per fare la stessa domanda che ho fatto sia a Stefano Beraldo che a Edoardo Nesi. Perché secondo lei questa reazione non c'è nel paese? Reazione sui temi economici, chiaramente? Perché si è creato un clima sordo o sordito, di muto, in cui ci si fa fatica ad uscirne. E non riesco bene a capire perché. Sa qual è il tema forte? Che poi... ho esperienza di queste cose, tutti noi abbiamo esperienza, quando si fa fatica a uscirne poi se ne esce di botto tutti insieme e succederà un grande casino. Io credo che siamo al punto finale, quindi in questo momento, sì, nei giorni, nelle settimane successive bisognerà assolutamente trovare una soluzione, però dobbiamo farlo. Nel frattempo noi imprenditori, ma noi siamo gli ultimi, ma i lavoratori che hanno la stessa dignità nostra, i contadini, stiamo facendoci il mazzo per arginare la situazione, non è semplice, c'è un problema mondiale, no? Dobbiamo darci da fare, però finché non risolviamo la questione politica, quella di base, non la risolveremo mai, senza ideologie, senza destra, senza sinistra, abbiamo bisogno di mettere non dei fenomeni, della gente normale ma competente, i nostri grandi asset sono il turismo, allora il turismo bisogna mettere il più bravo che abbiamo in Italia sul turismo. E così via sugli altri settori, devo fermarla Farinetti perché il nostro tempo a disposizione, tanto ci risentiremo perché... Quando vuole. Se la situazione continua così avremo altri motivi. Grazie a Oscar Farinetti, presidente e fondatore di Italy. Noi continueremo nei prossimi giorni a raccogliere tutte le testimonianze di chi viene dall'impresa, di chi la studia, di chi la fa, su come si dà una raddrizzata a sto paese. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.